vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 27 novembre, il sole in regione sorto alle 7.13 e tramonterà alle 16.42. La luna è crescente, siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino. Qual è lo stato dell'arte dell'agricoltura in Friuli Venezia Giulia? Oggi l'analisi delle principali criticità, ma anche potenzialità, ci viene fatto dal presidente di Confagricoltura del Friuli Venezia Giulia, Philippe Turnvalsassina. Si parla di rape, invece, delle loro valenze storico-agrarie e culturali nelle storie di Angelo Floramo. A seguire, nuove disposizioni nel settore legno per la rubrica delle normative, cui seguirà una spiegazione ragionata sul termine di autoctono in frutticoltura, che tanto ha fatto discutere. A che temperatura vanno bevuti i vari vini? Un argomento puntualmente spiegato nella nostra rubrica dei sommelier, per passare poi, nello spazio che dedichiamo ai fiori, all'ellebro, altrimenti conosciuto come rosa di Natale o d'inverno, da non confondere con la stella di Natale. Andamento dei mercati, previsioni del tempo per la settimana entrante, il proverbio friulano della settimana, chiudono la puntata. Le emergenze del mondo agricolo, oggi Vita nei Campi, le inquadra dall'osservatorio di Confagricoltura. Ne parliamo con il suo presidente regionale, Philippe Turnvalsassina. Innanzitutto, energia. Sicuramente l'energia è il tema del momento e questo incide poi sulla tutta la filiera della produzione agricola, dal gasolio che serve al trattore, all'energia che serve per trasformare i nostri prodotti e ai concimi che servono ai nostri campi. Sì, perché i concimi sono energia. Direttamente collegati con quelle che sono le quotazioni del gas. E tutto è in qualche maniera contingentato, se non addirittura mancante, per la congiuntura internazionale. L'aumento dei prezzi ha cominciato ben prima di questo momento, da febbraio, che sappiamo essere stata una data divisiva per quello che era la nostra storia più recente, ma non è solo questo, è proprio il fatto dell'incertezza, non solo la mancanza, perché i prodotti sono stati sempre trovati alla necessità, ma psicologicamente l'idea che questi prodotti potessero mancare e le oscillazioni dei prezzi hanno creato un grosso stress all'interno del mondo agricolo. È uno scherzo dire che dobbiamo riaprire le stalle per avere i concimi naturali oppure dobbiamo andare a sprombattuto con il sovescio? È un ragionamento che va approfondito. Spesso ci viene detto che dobbiamo tornare a un'agricoltura legata al biologico, legata a dei processi molto più sostenibili dal punto di vista ambientale, ma questi, se pensiamo al nostro passato, erano legati proprio alla circolarità dell'azienda e dunque ad avere una stalla. Lei ha usato il termine sostenibilità. Da un punto di vista economico, come sta andando? È diverso da settore a settore, l'agricoltura ricopre molti ambiti diversi. Certo, l'aspetto climatico di quest'anno ha inciso fortemente sulla capacità reddituale delle aziende. Certi hanno avuto anche dei redditi interessanti, i prezzi elevati hanno permesso di marginare. Altre aziende che non sono state capaci di produrre perché le alte temperature e la mancanza di acqua ha fatto sì che non solo quest'anno non sia stato profittevole, ma anzi hanno dovuto subire importanti perdite. Ecco, un'altra emergenza è l'ambiente e l'agricoltura. Questo è il tema del momento. Sappiamo che la Comunità Europea preme fortemente su avere un'agricoltura più sostenibile. Il percorso, secondo me, è ancora da definire. Le regole non sono chiare e avere questa sostenibilità ambientale ha un costo e bisogna capire ancora come raggiungere un giusto equilibrio. Il rapporto tra tradizione e innovazione come sta andando? Male, perché esistono molti preconcetti e noi sappiamo che, o almeno noi crediamo, che se vogliamo raggiungere certi obiettivi dobbiamo accettare un certo livello di innovazione. Però questo spaventa e capisco che trovare adesso la via è tutta da scrivere. A tutti considerano le rape quale pianta povera, relegata ai bordi dei campi, come era una volta, ma al di là delle sue valenze culinarie ha anche una sua storia e letteratura. Prodotto povero per antonomasia, la rapa ha da sempre rappresentato un alimento fondamentale del contadino friulano. Coltivata a margine dei campi e negli orti, venne considerata talmente preziosa per la sopravvivenza nei mesi freddi che i legislatori medievali punirono con grande severità chi le rubava, mettendo a repentaglio la sussistenza dei ceti più svantaggiati. Così, ad esempio, gli statuti di Ragogna, risalenti alla fine del secolo XV, colpiscono con particolare asprezza coloro che, intromettendosi nei fondi altrui, ardiscono portare via rape o foglie di rape, conosciute in Friuli come whisties, importante fonte di sostentamento assieme al vino per la gente comune. La celebre brovada non era l'unica ricetta. Le donne sapevano bene che dopo la prima gelata veniva il tempo della raccolta. Le rape diventavano così gustosissimi ufiei, se tagliate a tocchettini, fatte lessare e poi passate in padella nello strutto. Le foglie si conservavano invece sotto sale, ottime per condire le zuppe. Correva il 1547, quando con il nome d'arte di Andrea Bergamo, Pietro Nelli stampò un libretto godibilissimo, che contiene 26 capitoli scritti in rima, conosciuto come Le satire alla Carlona. Il contenuto è ispirato alla grande tradizione burlesca del Cinquecento. Ne esce un quadro estremamente colorato, di straordinaria vivacità, che ha il sapore di quel vino che si versa sulle tavole di legno di un'osteria, piuttosto che l'abboccato dolce e stucchevole di un liquore offerto in calici di cristallo nel salotto di una corte raffinata. I contenuti sono rabbiosi, ma l'acidulo si mescola sempre alla leggerezza, che scaturisce dalla risata, mantenendo intatto il piacere ruvido e il gusto di mordere quando capita. Nel capitolo dedicato alla lingua, l'autore si occupa anche dei friulani. Ma davanto al Friul, d'un tal contento, lingue furlane, ancor che fosser nate 100 miglia di qua dal tagliamento, o fosser pur delle vacche impastate nei pestrini in Venezia, assai più degne con le furlane, con rape ingrassate. Mi sembra il complimento più bello fatto all'idioma che schiocca in queste nostre contrade, definito schietto e vero, forse perché corretto con l'asprigno delle rape, così lontane dai confetti veneziani, per questo destinato a farsi riconoscere anche lontano dal tagliamento, come a dire che popolo e lingua si assomigliano, e che c'è più dignità in una scodella di brovada, ma gustata da uomini liberi, che in un piatto d'argento leccato con la lingua di un servo. Assieme a Marco Malison, responsabile tecnico e economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, parliamo oggi di registro degli operatori del legno, in quanto ci sono alcune incombenze che possono riguardare anche gli agricoltori. Anzitutto ricordiamo che esiste un regolamento comunitario, il 995 del 2010, noto con la sigla EUTR, che regola l'immissione sul territorio dell'UE di legno e suoi derivati. Gli operatori devono garantire la tracciabilità del prodotto attraverso una serie di procedure che consentono alle autorità competenti di svolgere i necessari controlli. Nel 2014 è stato istituito il RIL, Registro Nazionale delle Imprese del Legno, e più di recente, con il decreto ministeriale 9 febbraio 2021, sono stati aggiornati i requisiti per l'iscrizione e le modalità di gestione. Di regola l'iscrizione deve avvenire prima dell'inizio dell'attività, ma in fase di prima applicazione agli operatori già attivi è consentito di regolarizzarsi entro il prossimo 31 dicembre. Quali sono i soggetti tenuti ad iscriversi? Tutte le persone fisiche o giuridiche che immettono per la prima volta sul mercato dell'Unione, a titolo oneroso o gratuito, legno prodotti da esso derivati elencati nell'allegato al regolamento 995 del 2010, destinati alla distribuzione e all'uso nell'ambito di attività commerciali. Sono inclusi anche gli operatori occasionali, come ad esempio i piccoli proprietari forestali che vendono legname su strada, a prescindere dalle quantità. Attenzione però che sono considerati operatori EUTR anche gli agricoltori che vendono legname derivato da superfici aziendali come boschi, pioppetti, frutteti o alberi di varia natura, anche qualora lo facciano saltuariamente. Ci sono deroghe? È esonerato solo chi fa esclusivamente autoconsumo, oltre a chi è iscritto ad albi o elenchi regionali, e a tale riguardo è utile ricordare che nella nostra regione già dal 2012 è stato istituito un elenco delle imprese forestali. I soggetti censiti in tale elenco regionale assolvono di fatto l'obbligo di iscrizione a RIL, a condizione però che abbiano completato una specifica formazione di 40 ore presso un ente formativo accreditato. Cosa rischiano gli inadempienti? La mancata iscrizione a RIL comporta una sanzione compresa fra 500 e 1200 euro che tuttavia sono poca cosa rispetto alle possibili sanzioni penali e amministrative collegate al mancato rispetto della norma sulla rintracciabilità, che possono andare da 5 fino a 5000 euro per ogni quintale di legno commercializzato illegalmente. Il termine autoctono in fruticoltura ha ingenerato lunghe discussioni e distinguo. Cerca di dipanare oggi la matassa il professor Raffaele Testolin. Argomento delicato che in passato mi ha fatto guadagnare il biasimo di tanti cultori delle varietà del territorio. Proviamo a capirci. Le varietà autoctone sono varietà presenti nel territorio a memoria delle persone che in quel territorio vivono. Se poi ci sono testi che descrivono l'esistenza di quella varietà in secoli passati, questa è certamente una testimonianza importante. Il problema è che molte delle varietà autoctone non esistono da sempre in quel territorio. Sono state introdotte da persone colte che conoscevano le pomone, da migranti che lavorando all'estero avevano modo di apprezzare qualche varietà di melo piuttosto che di pero o di pesco, da paesani reduci da visite a parenti lontani. La casistica è tra le più varie e a volte le storie sono affascinanti. Pensate che durante la valutazione delle piante di noce spontanee della nostra regione ci siamo imbattuti a Zoppola in un noce diverso da tutti gli altri che geneticamente assomigliava molto ad alcuni noci del Kazakistan. Strano, eh? Per niente. Fatta una breve indagine, abbiamo scoperto che un nonno o bisnonno che fosse della famiglia proprietaria del noce, che lavorava alla costruzione della Transiberiana, aveva portato a casa delle noci provenienti da quelle zone. Ora, se è vero che i friulani hanno portato nel loro territorio varietà conosciute nelle vicine regioni del Veneto o del Trentino, ma anche in Francia, Germania, Austria, paesi dell'Est Europa, perfino Stati Uniti, è anche vero che sono avvenuti scambi analoghi nell'altro senso e varietà tipiche di qui sono state portate sempre dagli stessi migranti, boscaioli, carpentieri, cramars, nei paesi che visitavano. Insomma, in tasca la britule, il coltello a serramanico che si usa per gli innesti, e a Natale, in occasione del rientro in famiglia, avvenivano questi scambi. Il compare aveva l'obbligo di conservare il materiale sotto sabbia e procedere a tempo debito all'innesto. Per alcuni questi scambi sembrano far cadere la favola della varietà nostra e solo nostra. Oggi i fatti non vanno visti così. Si tratta di scambi di biodiversità, come si direbbe oggi, che hanno lo stesso valore degli scambi di culture, tradizioni, professionalità, prodotti gastronomici e ricette che hanno l'unico merito di arricchire le conoscenze e i rapporti di buon vicinato tra i popoli. Quindi, evviva la britule! È un dilemma per molti. A che temperatura va servito il vino, bianco o rosso che sia? Ci dice tutto Vladimiro Tulisso per la rubrica dei sommelier. Dopo la stappatura, sembra tutto fatto. Ma affinché la degustazione sia appagante per i nostri sensi, dovremo fare attenzione alla temperatura di servizio. Abbiamo imparato che in cantina è necessaria una temperatura costante tra i 12 e i 15 gradi. Ebbene, questa condizione è ottima per la conservazione, ma quando si tratta di berli, i vini hanno diversi caratteri e anche diverse esigenze. Si parte dai 4-6 gradi degli spumanti, per salire agli 8-10 dei vini bianchi giovani. Per giovani intendo fino a un paio di anni dopo la vendemmia. Con i vini con maggior grado alcolico, e magari affinati in legno, la temperatura deve salire ai 10-12 gradi. Temperature superiori ai 12 sono ideali per i vini rossi delicati, ma se c'è struttura, cioè grado alcolico, bisogna arrivare a 14 gradi e fare addirittura un balzo ai 16, con i vini passiti, pur bianchi, penso al nostro Picolit, o i bianchi macerati. Infine, tra i 16 e i 18 gradi stanno comodi i vini rossi evoluti, di grande struttura e con una bella dose di tannino. Nessun vino dovrebbe essere bevuto sopra i 20 gradi, perché l'alcol si fa violento, pizzica al naso e i profumi, da eleganti, si fanno sgraziati. Dobbiamo anche ricordare che il vino va bevuto a piccoli sorsi e, restando del tempo nel calice, acquisterà la temperatura ambiente, che di solito è sopra i 20 gradi. Quindi, quando prendiamo la bottiglia in una cantina che ha tra i 12 e i 15 gradi, abbiamo due strade da seguire: raffreddarla o riscaldarla. In quest'ultimo caso dovremmo stapparla, versare il vino nel calice o nel decanter e aspettare. Per abbassare la temperatura, invece, c'è il frigorifero. Mi raccomando, mai il congelatore, troppo stressante per il vino. Per far arrivare una bottiglia a 4-6 gradi, partendo da 15, serviranno almeno 3 ore. Se abbiamo fretta, è sempre utile un secchiello con acqua, ghiaccio e un pugno di sale grosso per accelerare lo scongelamento. In un quarto d'ora, più o meno, la temperatura di una bottiglia immersa fino al collo può scendere di 10 gradi. Se vogliamo diventare dei perfezionisti, quando il vino sarà nel bicchiere, potremo controllare la temperatura con un termometro a lettura rapida, che è anche una buona idea regalo. Natale, dopo tutto, si avvicina. Non confondiamo questa pianta con la stella di Natale. Questa è la rosa di Natale, ovvero l'elleboro. Ce ne parla Alessandro Squizzato per la rubrica dei fiori. L'elleboro appartiene alla famiglia delle ranuncolacee. Conta circa 25-30 specie di perenni. La maggior parte a foglia sempreverde. Alcune sono a foglia caduca. Abituato alle basse temperature, l'elleboro viene anche chiamato rosa di Natale o rosa d'inverno, perché fiorisce tra dicembre e marzo. Lo possiamo trovare nelle regioni di montagna, ad altitudini fino a 1900 metri. Sono molto tolleranti e sono generalmente semplici da coltivare. Preferiscono una posizione riparata in mezz'ombra, perché l'ombra densa può ridurre la fioritura, ma facciamo attenzione al sole estivo. Il mio consiglio è di porre la pianta in ombra nei mesi estivi e in mezz'ombra nei mesi invernali. Se decidiamo di piantarla a terra, troviamo una zona in cui non riceva i raggi solari nelle ore centrali della giornata. Nonostante siano tolleranti ai vari tipi di terreno, gli elebori preferiscono suoli alcalini, ricchi di sostanza organica, umidi, ma che drenino molto bene. Hanno radici profonde e per fiorire al meglio apprezzano concimazioni consistenti. Possono crescere fino ad un'altezza compresa tra 10 e 30 cm. Si adattano molto bene alla coltivazione in vaso, purché i vasi siano profondi. I fiori possono persistere fino a 2 mesi, se la pianta viene tenuta nel luogo giusto e il clima è clemente. I colori dell'elleboro generalmente sono il bianco e il porpora, ma ci sono varietà con fiori che vanno dal rosa delicato al verde al crema. La rosa di Natale non necessita di potature, se non per eliminare parti secche o danneggiate. Si moltiplica per seme oppure anche per divisione dei rizomi. Anche se non in fiore durante i mesi caldi, gli ellebori producono molto fogliame, costituendo così piccoli cespugli molto decorativi. Con Amos D'Antoni, l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Mercato debole con prezzi in diminuzione venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine. dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 32,60 e 32,90 euro al quintale IVA esclusa, il frumento tra 34,80 e 35,30, l'orzo con peso specifico 62,65 tra 30, 30 e 50 e la soia tra 55 e 55,50. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 6 euro, il quintale e la soia allo stesso prezzo dell'anno scorso. Moderate contrattazioni all'ortofrutticolo di Udine con prezzi in ribasso, soprattutto per le verdure. L'insalata Gentile e la lattuga Trocadero vengono quotate tra 0,80 e 1 euro il chilo, IVA esclusa. Le zucchine tra 1,80 e 2,20. Le melanzane tonde tra 1,30 e 1,50. I peperoni gialli e rossi italiani tra 2 e 2,20. Pomodori in grappolo tra 1,80 e 2 euro, la scarola riccia tra 2,40 e 2,60, il radicchio rosso tondo e quello di Treviso tra 1 e 1,30, le mele golden tra 0,85 e 1,30, le pere Williams tra 2 e 2,30, l'uva da 1,80 e 2 euro, le clementine estere da 1,40 e 1,50, le arance italiane Navel con foglia tra 1,30 e 1,50 e le castagne tra 3 e 3,50. Nel settore della pesca, per le condizioni meteo favorevoli, l'attività è proficua e i prezzi sono in leggero ribasso. Alla cooperativa pescatori San Vito di Melano Lagunare, i branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi sono quotati da 10 a 23 euro il chilo, IVA esclusa, le orate da 4 a 16, le sogliole da 5 a 22, le canocce da 5 a 12, i rombi da 27 a 32, i latterini da 4 a 6, le anguille da 18 a 22, le capesante da 14 a 18, le seppie da 6 a 11, i calamari da 13 a 17 e le manzancolle da 16 a 24. Infine, scambi attivi con prezzi in aumento nel settore degli avicunicoli. Il valore dei poli a terra varia da 1,60 a 1,62 euro il chilo, IVA esclusa. Le anatre da 3,66 a 3,70, i tacchini maschi da 2,19 a 2,21, le femmine e faraone da 3,70 a 3,80, i conigli oltre 2,5 kg da 3,06 a 3,12, le uova oltre i 73 grammi provenienti da allevamenti a terra sono a 22,80 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Arturo Puccillo diamo uno sguardo al tempo che farà nella settimana entrante. Dopo alcune giornate che hanno riportato il mese di novembre verso la norma per quanto concerne le temperature, ecco aprirsi una fase caratterizzata da un susseguirsi di depressioni mediterranee che richiameranno correnti orientali nei bassi strati con una leggera diminuzione delle temperature. La settimana inizierà con cielo nuvoloso coperto e la possibilità di qualche debole precipitazione, specie martedì, con del nevischio sui monti. Soffierà buona moderata sulla costa. In intensificazione martedì, specie in serata, quando potrà essere forte a Trieste. Temperature massime in calo, probabilmente anche sotto i 10 gradi, localmente su pianure costa. Mercoledì dovrebbe essere una giornata simile a martedì, forse con qualche occasione in più di deboli precipitazioni sulla fascia orientale della regione. La bora, forte al mattino, tenderà ad attenuarsi verso sera. Le temperature rimarranno grosso modo stazionarie. Tra giovedì e venerdì la depressione mediterranea potrebbe avvicinarsi e, di moto retrogrado, spostarsi verso la Francia, favorendo una fase con aria più umida in quota e precipitazioni sparse un po' più abbondanti a est, e con neve anche in prossimità del fondovalle trevisiano. Si prevede ancora bora sostenuta sulla costa. Il prossimo fine settimana, pur mantenendo la circolazione orientale nei bassi strati, sembra profilarsi più asciutto e leggermente più mite, specie nelle ore diurne, anche grazie all'espansione di un anticiclone da est. Raccomandiamo in ogni caso di seguire costantemente l'aggiornamento delle previsioni sulla RAI regionale, sul nostro sito web e sui principali social media. Alla prossima! Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo e ai santi. Se al pluf a Sante Bibiane, al pluf par un mes e una settimane. Ovvero, se piove il giorno di Santa Bibiana, il 2 dicembre, pioverà per un mese e per una settimana. Coordinamento tecnico di Daniel Apostu, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.